Aspetta, Giovannini! Ehi, che bello! Ah, è doppio ru? Chi è che fischia? Eia! Cosa vuol dire eia? Chiamai! Convito, sì! Ciao, To! Sì, buonasera! Io male se si mangerà basta al forno! Oh, si sarà ben tenere anche i film! Ma che film? No, beh! Via da Edu, in Agana! Ma l'anzianità si vede, si sente. Allora, via. Non c'è nessuno stasera. Ciao Mari, ciao Bacchi. Buonissimo. Attenzione Bacchi, ciao. E vuoi dire che sono indaffarati, ciao? Cosa, Tole? Credace che sono indaffarati. Abbi sicura, Te l'ho detto io e tu no. Secondo me saranno dormiti. No. Rummi di no, saranno indaffarati. Vai, fidati, io sono dormiti. Allora, Luca. Chissà che migliori il tempo. Sì, boh. Ma domani a posto buono. Speriamo. Perché? Vabbè, oh, yeah, niente, bubu. Cosa c'hai, Luca? Puta. Sonno, fame. Fame e sonno. Sì, da te, che rubo i va. E allora? Io invece devo mangiare orario. Cosa, To? Io devo mangiare orario. Ah, va bene lo stesso. Ho fatto merenda stasera, ho fatto un tè, mi sono mangiato un pezzo di torta che ho fatto io, con ricotta e uva passa. Ci dà buona, mi? Buona buona. Cosa? La torta che ho fatto domenica. Non è ancora. Tata che te la sera già uscita. Vabbè, poi c'è questi giorni non stavo bene, non ne ho mangiato. Ah, mi siamo battiti, mi buonasera. Buonasera sia a me. E avanti anche a lei. Ehi, vabbè, come la va? Da un piede all'altro. E c'è Luca. Sì, c'è radiamatore. Ma sta fatto tutto. Buonasera, ciao Bacchi. Buonasera Luca, aver ascoltato. Pronto, se sei stato tu, l'ho sentito perché c'era il ciccalino delle radiamatore. Ti, e non sentivo nulla. E dove? Su questo canale, vero, però non per l'altra frequenza. Boh, però non c'è nulla. Perché questo qui è molto sensibile, invece l'altro come il tuo è più duro. Ma sentiva tipo ciccalino? È tipo ciccalino, ci vuole doppio. Ho capito. Tuttore, qualcosa sentivi? Ah, chi? Stavo ascoltando, infatti, sulla propria frequenza, stavo ascoltando. E poi non mi sono ricordato di cambiare, stavo chiamando, ma non mi risponde nessuno stasera, è la propria frequenza. Ah, e capita, ogni tanto capiteggia. Tu mi dicheggi. Ui. Al morino non si è sentito. Da da fa, sarà drummido. Magari se non tiene il bambinaio. Sa che non sia fuori binario. Ma fare il bambinaio e con il bambino, lo piccolo, magari andandolo a toccare, il grande e il piccolo lo tiene lui. Cosa fa nel bambinaio? Ma no, non penso, no. Marino, stai facendo il bambinaio? Sì, sto facendo il bambinaio, entro subito, scusate un attimo. E andiamo dove andiamo, vai. Tole, che sto facendo il bambinaio. Sì, l'ho sentito, sì. Agito, vai a fare il bambinaio. Anche quello bisogna fare, Tole, anche quello bisogna fare. Ah, io sono manzano e a l'una e mezza che andando a ritirarlo, quindi... Tu sei postino. Sì, ma accompagna ancora a voi nel ritiro. e poi fa il giro per girarlo, è andato in mezzo. Oh, yeah. Dopo l'influenza, ma voi? Un po', signor Bacchi, un po' di... signor Bacchisio. Ecco, non si sente a quello lì. Niente. Ma ci vedi di lui? Ah, buono, non lo so, buono. Forse, forse. Con Luca no, perché ancora... lui non c'è la risposta, lui già e boh, agitavi, Luca! Orgia! No, Gianni non ve! Sì che ti vuole Bacchisio! Ehi, a Bacchisio, dimmi tutto! Ho detto, l'influenza non è buona, Tore! A Luca non gli ha posso dare perché è riduce! No, a Tore dalla, no, no, icchia! Già si muta a domani truppo, no, no! A me non mi si attacca chi va giù, ha mai giovato lo... il gozo mi ha giovato, quindi... lo vaccino. Se ne fatto lo vaccino, se ne fatto lo vaccino e non lo posso benedire. Ma quando fai il vaccino devi essere sano, eh. E io chiedo in testa. Andiamo, andiamo, dai, dai. Non si può più, no. Sei sano. Se io non ti faccio il vaccino vuol dire che è malato, no? Vabbè, dai, dai. Tu, quando tu vai a fare un vaccino, vieni con me, ti porti a fare un vaccino. Allora, dottore, se la faccio con la siringa dello sceriffone, mi capisco la mia mano, e poi le lavora, non mi dico. Comunque, il tuo vaccino che si offende è anti-influenza e anti-fuoco di Sant'Antonio. Sì, il fuoco di Sant'Antonio è già passata, va. Allora, non mi frega. Sì, vabbè. Fanno finiti di su, io me l'aiunto a me una busta, a Ragusa e a Rabbanza me l'aiunto. E Magnazzone hai dato? Sì, Magnazzone ha giù, ho provato, ma com'è che non mi sono grattato? Ma non si può, dici che io non l'ho provato, non per carità, non mi faccio provare, ma se stesso dici fa sempre male. A me, nella pancia mi ha sfogato dentro, mi ha sfogato. Invece nella goccia mi ha sfogato fuori. Nella goccia, nella panza, un po' come è rimasto mi ancora. Me lo sono sempre massaggiando per passarmi. Ma detto che ci vuole tempo a passare. Non è una cosa veloce veloce, non è una dromadia, no. Non è una cosa. Vediamo se ho finito di fare il bambinaio. Ho finito di fare il bambinaio, non lo so. Terminato, terminato. Ciao Bacchisio, ciao Tore, ciao Luca, salutoni a tutti gli ascoltoni. Avanti Bacchisio. Ok Marino, buonasera, ben entrato. C'hai leggermente di correre a me addosso. Forse il tempo che si è messo male. Avanti Tore. È il tempo delle mele, Bacchi, il tempo delle mele, avanti Tore. Accudire. Catta. Ciao Marino. Oh Giulia, noi che andiamo via, andiamo. Ah, è ora di farmi la mela, se ne fate a maggio e a settembre. A mano finne. Andiamo via, andiamo. Le banane vi sova, solo le banane. Se ne vuoi banane, vi lancio un bene. Avanti l'amico che ha salutato. Buonasera a tutti. Sì, buonasera Antonè. Sì, vi siete sopra telefonati. C'è Tore, c'ha il dito dopo veloce. Avanti Antonè. Sì, saluto a tutti. Avanti Tore. Oggi già salutato, buonasera da Giudito. Buonasera. Allora, bene, hai scucito anche a Bacchisio. Ok, ciao Antonello, buonasera. Tutto sparato, sì, così, il cannone è piazzato. No, ma sei per la stessa antenna, me lo come l'abbia girata rubato stasera, cosa ne so. Intanto già c'è poco di vento. Sono andato a fare la spesa, non riuscivo a salire dallo spi. Figurati tu, con due buste in mano, sarei costruito da quel dietro. Ti ha ascoltato, io lo so, forse è colpa mia. Tore, ripeti cosa ha detto Antonello. capito, uno spigno e poi non un altro. Sì, che c'era, che c'è molto vento e con le due buste ha detto che si buttavano a pesci. E ti devi mettere un po' di piombi in tasca. Aspetta, di quelle persone che sono vicino a casa tua, al tuo mezzo. Sì, ce le avevo, c'avevo due buste piene, pesanti. Come sono arrivato vicino al rifornitore, è cominciato questo vento a spingermi lì indietro. Mi sono dovuto fermare, perché se no me le buttava in terra. Non sono cose belle, Antone. Bobo, vero, Bacchì, non sono cose belle, no. E beh, quello fare, Antone, saldato lo hai. Sì, l'unica cosa che devo saldare è il condensatore. Quello me devi dire tu dove va, se ti ricordi, perché tutti gli altri, tutte le altre cose le ho saldate. Solo il condensatore, mi devi dire, vabbè, quando ci vediamo, intanto devi passare qua, adesso, in questi giorni. Perché l'hai svuotato tu, quindi tu gli altri ricordi se vai in quel filo rosso da Ponte di Dio o di al filo rosso, direttamente. Oppure è collegato in parallelo, non lo so. L'unica cosa è quel condensatore rosso, il resto è tutto saldato. Non lo so, che non me lo ricordo adesso poi come era, come lo ricordo. Dove era saldato il rosso? Perché mi sembra sia alimentava il condensatore, caricava il condensatore il rosso. Io provo a collegarla al filo rosso, quel condensatore, parte in pratica dal ponte di Rivoli. E poi va direttamente al filo rosso, poi il filo rosso scende giù e non so cosa ci sia sotto la batteria, perché non ho neanche aperto la vita. Poi gli altri due fili, quello verde e quello giallo che mi hai saldato tu, ho tolto quella specie di guarnizione che lo separa da tutto il resto, e in pratica rimane fisso e tranquillo, non tocca da nessuna parte. Bisogna vedere un po', provare per credere, capito, provare per credere. No, c'è un coso, la porto a vedere, un animale malato, so, te lo porto a vedere, se si può, va bene, se no lo buttiamo. Oh, se c'è lo schema elettrico mi viene meglio, perché me lo so come va collegato il condensatore, poi non faccio altro che metterci lì il coso, il silicone dentro, in modo che rimanga fisso, hai capito? Una volta che li metti con due, che è a posto, rimane sigillato, non tocca né uno né l'altro, tutto lì. Mi serve solamente dove va collegato il condensatore, dal ponte di Rivoli, se va collegato al filo rosso o se va collegato in parallelo tra il più e il meno che poi mi sembra strano, perché ho piegato così com'è, non ci arriverebbe nemmeno a quel ponte di Rivoli. Oh, un attimo, ma chi, quando sale l'Antonello, porta anche a Tore, così lo provate su di Tore, l'ha provato, ho capito, ma chi? A controllare la Tore, un po' di condensatore. Quando attaccate quella fare manca, lo saldate, se funziona, va provato su Tore, che Tore è molto bravo, alla prova, capito? Ehi, a Tore lo portiamo, caspita, lo voglio Antonio a Tore. Ma se l'ho provata con l'altro piazzato, no? Ehi, 400 volt. Se adesso che ti do un fastidio, Grazie. Sono 400 volt di scarica, solo. Antone, ma devi dare scegliere a Marino che do un fastidio. Ma te c'è sempre a me? No, che ti voglio bene, fiorellino. Tu sei un fiore, sì, lo sai. Ah, Zione. Antone, ma in direttiva sì. Non mi ricordo Marino, in direttiva sì. Io sì. A me non mi su. Benissimo, una bella modulazione, bella chiara. Antonello sulla spalla, Antonello, come mi stai accoppiando? Segnale 3, sono in direttiva anch'io. Ho capito, te l'ha detto, mio marito. Santiago 3, anche lui in direttiva. No, lui va spalato, però un po' di QRM si porta presso, un po' di QRM. Colpo di Tore, avanti Tore. E c'è il vento. Tore qui arriva sparato, come al solito. Il più forte è Tore. Avanti, signor Tore. Sì, perché c'ho le frecce io. Ecco cosa è. Vi punto le frecce e arrivano tutte i buste, arrivo. Maledetto. Già ne sai tre strisce, sì. Avanti, Antone. Sì, aspetta. Bacchi, guarda poi adesso che ho cambiato il pulsantino del microfono. Mi ascolti meglio o peggio? Ma adesso è migliorato un po', cioè il problema c'è sempre, va benissimo, si può ascoltare, capito? Io sto andando con la stessa antenna, sei tu, però a spalle ti viene. Oh, Bacchino, ieri arrivavi meglio, oggi arrivi un po' disturbato da me. Infatti, dunque, ieri arrivavo meglio. Se il vento non ha spostato qualche cosa su, non ci vado, non va sogno, o lo saranno. Magari si era spostata l'ultimo. Boh, arriva meglio Pomponio che è da lontanissimo che tu. Pomponio lo sta pompando, io non lo sto pompando nulla. Pompando sta. Il Baufengra. Ne ho visto uno oggi. Di Baracchino, ma non Baracchino, un apparato da remotoriale ho visto, costa 462 euro, parte da 1 a 30 MHz ed è bello, veramente bello, ce l'ha un... aspetta la ditta che ce l'ha, l'ho visto stasera, lo dico subito, per quello che costa, guarda, la prende dal volo. Si chiama Ali Express, si chiama. L'ho visto su Facebook, ma bello. Con l'apparecchio c'ha tutto, c'ha il frequenzimetro, misuratore di campo, tutto. Non ne manca nulla. Ma bello veramente. Gianni, ordinai 10 a Antonio. 10 ordinai. E se avevo avuto soldi me l'avevo tirato davvero, quell'apparato lì. Perché veramente è bello. Va da 1 a 30 MHz, copertura continua, AM, FM, USB, LSB, CV doppia, addirittura anche in digitale. Anche in digitale? Eia. 200 euro costa? 500 euro. 462. 162 euro. Eia, 462 euro, ma bello a me. Ma sono sempre trappoline sotto. Sai, come la trappola che ho svoltato stasera. L'ho aperta la trappola stasera a Tolo. Oh. Vabbè. No, sicuramente come può essere il presidente un apparato del genere? No, non è così, no. È un apparecchio decabetrico, Emi, questo. Allora sarà come un 140 con un 450. Ma manco le assomiglia, non so d'altro. Bello, bello, bello, bello veramente, va. C'è un'antenna 6M 7, per 6 metri, 7 metri, 8 metri, 9, 10 metri, 4G, antenna Paul in fibra, 53,07 centesimi, ma bella mica. Che marca è? Yaesu Midrand, cos'hai? Non lo so, l'ho visto adesso. Si chiama antenna pole in fibra. 6 metri, fai 6 metri, 7 metri, 8 metri, 9 metri, 10 metri. Poi c'è scritto 4G, ma questo qui dovrebbe essere 4 grammi, non lo so, cosa cavolo ne so. In fibra. Ne hanno venduto 22 di quelle antenne. No, io non sto dicendo dell'antenna, dell'apparato sto dicendo. Ah, l'apparecchio già è bello, cazzo, veramente è bello. Allora, l'antenna è in fibra di vetro, telescopica, albero paratelescopico. Ah, bella. Riesci a vedere? Al momento non stai usando la streaming con wifi, clicca per giocare, non è la facoltà. Aspetta. E in pratica cinese l'apparato, aspetta un secondo, c'è un commutatore anche a un'uscita a tre vie, bello cazzo, Webcam 550 MHz, AM radio, poi cosa diavolo c'è, 5 cazzo di antenna. Nuovo 750V positivo V banda a basso rumore 452 euro, cazzo, ma che è, ma roba, roba giapponese, ma visto questa roba che c'è fuori di testa, c'è anche la gola, antenna a terra, vabbè, quella deve essere per VHF sensato, per portatili, amatore radio satellitare, antenna AM 118 euro. Adesso non so che cazzo di marca era quell'apparecchio. Comunque era cinese, bello veramente. No, le c'ha pure l'attacco scatter. Si sta attaccando il televisore, è buro. E sembra roba cinese, sta tranquillo, sarà come te che so di... Che va, bacchisio. Ha pure si costa un bel, dura poco. No, ti dico che... cinese non si fa niente. L'ha fatto male, che c'era il problema? Era su, l'altro giorno ho detto, lo porto giù, uso quello lì. Lo farà giù se sapeva la Romadia. Andiamo a vedere. Facchi, andiamo a vedere. Vuoi tirare una base, fai prima. Lascialo stare a una base, boh. Chissà che anche noi si mongia a portare la giura. Sì, ma manca l'anca. Adesso non si può appunto, dove ha buona porto l'acqua. No, non so che prendere. E solo stasera c'è un salvatore per portato di mano. Se no, capito. Salì del su, c'è freddo, non mi sento tutto quello che ho detto, non ci vuole niente. Domani, che io non ho tempo, c'è più tempo che denaro. Andiamo a vedere, andiamo a chi, Bobo, avanti, Antonio. Io ho messo guardando il catalogo di questa storia. E vabbè, roba, ragazzi. Bella, veramente. Dubbino. Domani, guarda, ti faccio la foto. Appena lo trovo qualcosa lì, ti faccio la fotografia e te lo mando via WhatsApp con l'apparecchio. Per quello che costa, 462 euro. Fa da 0,1 a 30 MHz. C'ha il frequenzimetro, c'ha il misuratore di campo, c'ha tutto. Addirittura c'ha anche per sapere quando parli, come si dice? Ti segna tutto, ti segna. È roba cinese. Mi sembra che è 961, una cosa del genere. E domani mandiamo la foto, così forse facciamo l'ordine, 10 me ne servono, 10 pezzi, Antonio, avanti Ettore. Sì, un pezzaretto ne manda a me, quindi, come vedi, un pezzaretto già basta. No, Ettore, è tutto a nulla, fa anche caffè questo parecchio. Avanti, signor Luca ci abbiamo, Luca avanti, Luca si è spostato, Bacchisio avanti. Sta un po', lo sto mangiando Luca adesso, un marino, e lui è impegnato. Quando finisce la pasta forno entra. E una settimana se ti andiamo male, ti giovano. Avanti, che altro vedi di mangiare? Andiamo bene, andiamo, va chi? Avanti, Antonè. Mandami la foto domani mattina, così vediamo, dai. Già, ti mando la foto, non ti preoccupare. Forse almeno te lo guardi, ma è bello veramente, cazzo. Bello parecchio. Ascolta, ma il caffè lo fa? Oh. Non so se lo fa il caffè. Perché io se non fa caffè non ne voglio, eh. Ah, E va bene, dai, vediamo se attacchiamo qualche pezzo e vediamo se fa pure il caffè, vero Bacchi? E allora, sì, fatta, eh. Oh, ioia. E allora, Antonio, a quale parte? Molto vento c'è. A Uglia. Un po' qua giù che non ce n'è. Ma qua è così, là, poca roba. E da te, to? Ah, da qua c'è poco e nulla. Sì, vabbè, Antonella su. Antonella è montagna, vero Antonella? No, sono in montagna, col gusto ci guadagna, diceva quella. Esatto. Oioia. Vediamo se c'è Luca. Nulla. Gio Maria negativo, avanti Bacchisio. Luca impegnato, ho detto Marino, doveva mangiare la pasta al forno e Luca impegnato, adesso quando finisce già entra. Gio Maria non si è sentito stasera per nulla, boh, dove se sia in questa greca. via Daedo, no, boh, non ho sentito neanche in giro, non lo so, avanti Antone. Cava, cava, ho visto l'altro giorno un aggeggio che si aggancia al telefonino e riceve, anzi ho visto una sera, l'ho visto, e ti fa da ricevitore il telefonino, non mi ricordo se, che frequenza fa, però forse faceva da 144 a 520 mi pare. L'ho visto in un altro sito, l'ho visto stasera, stavano pubblicizzando su Facebook, e c'è questa gente che si aggancia al telefonino, bellino, ti fa la ricevitore, c'è l'antenino, c'è. Antonio, stiamo retta a tutte queste cazzate che stiamo facendo, usciamo fuori di te, sempre c'è il cellulare, ogni mese abbiamo un cellulare nuovo, boh, se non diamo retta a loro guai, è bella la tecnologia, ma vai, finisci tu, avanti tu. E infatti, io ho già giovinito di biglia, quindi chi se che faccio mi passano, boh. No, vabbè, Antonio, se tu c'hai il banale da prendere ancora. E quelle ce li hai tu coltivate e derede nel gonto. Non mi far parlare male, che non li ho voglia stasera di dirti parolacce. E ti sei dopo moscio. Ma non sei influenzato, no? Non la giugana, forse non hai compreso che non la giugana, manco ti va a vedà. È la giornata, hai detto, è la giornata, capita. Avanti, Bacchi. Ehi, Maria, e gli vuole dare un po' di influenza, Antonio, non ne vuole. Non ne vuole comprare, glielo voglio regalare, non ne vuole, c'è della Luca, Luca è cavalescente, non può più annuncia. Antonio, non ne vuole, fa bene a non volerlo, già basta, è quello che c'ha. E anch'io ho fatto il vaccino, lo faccio ogni anno, ma se viene influenza viene in forma leggera, capito? Anche se c'è il vaccino può venire, non preoccuparti, verrà forma leggera. Meglio che non venga né uno né l'altro. Avanti, Antonè. Aspetta per arrivare i cinesi, quello che c'hanno i cinesi, che arriva a noi, facciamo l'affare. Già evito di mangiare pollo io per quello, tanti polli arriveranno da lì. Non hai visto come lasciano la roba fuori? Immediatamente arriva la malattia. Sono una cosa allucinante questi cinesi, insomma. Indiani. C'hanno la mania di lasciare il... vai lì, cioè, come si chiama, ti prendono il pollo, te lo ammazzano davanti. Poi se è malato non gliene fate nulla. Ma non lo sai quello del pollo, Antonio, sai che mangia molto pollo, viene davanti all'agnello. Ah, guarda, forse è meglio l'agnello che il pollo, guarda, a un certo punto. Se mi mangio un cacco, mi mangio. No, hai capito, chi mangia molto pollo, viene davanti all'agnello. Meglio così. Meglio così, almeno si vede il cielo. Allora. Avanti, da chi? Si mangia pollo, bisogna mangiare il rame, a me uno canta sempre. E allora, oioia. Quando è domenica stavo lavorando, stavo scendendo giù nel deposito, c'era una decina di poliziotti nel ristorante cinese di Pedagnetta. Chissà cosa diavolo è successo, boh? Dove era dove? Mamma mia. Come, ma chi? Dove erano i poliziotti? Il ristorante cinese c'è a Pedagnetta. Sono parrati. Oppure sto facendo la guardia per entrare il coso. L'influenza, questa influenza giapponese. Però ho visto un po' di polli e le stanno facendo entrare uno a uno. Allora, qualche liquidazione, c'è molta calca. Meglio nulla, avanti do. Procuriamo il dico Giovanni. Io l'unico dove ci può andare bene è quello di vicino a Coso, vicino al mercato. Da quelli lì solo si può entrare bene. Ah, chi sono? I cinesi? I cinesi sono. Manco in Kiwi, sei tranquillo, sì. Tranquillo, sempre cinesi sono, no. Sempre cinesi, non ho preso, mi hanno fottenuta. Lo sai, io faccio la plastica, faccio tutti i ristoranti cinesi, gira gira, faccio io per la plastica. Beh, guarda, c'è una gentilezza, una cosa paurosa, meglio degli italiani. Come la fanno loro, la differenziata, non la nessuno. Ma... tu lo sai quante volte mi hanno detto di rimanere a pranzo, di venire, ma famiglia, oh! Ma grazie di me, non vi sono mai andato, perché mi fate schifo, solo a vederlo. Ah, bisogna stare attenti anche sì. Bisogna stare attenti. Anche no, forse questi qua quando arrivano li pugliano e li controllano, da gabbappini. Controllano, i cinesi li controllano. Sì, li stanno fermando all'aeroporto, li controllano. E gli chiedono da dove stanno arrivando. E da ora, dalla Corea sono arrivati. Con tutta questa roba malata arriva da ora, per carità. Meglio nulla, avanti Antonè. Purtroppo è così. Le malattie tutte le vaccine arrivano sempre a me, tutte da lì, sempre da lì arrivano, quindi a un certo punto, solo che loro sono in tutto il mondo, hai capito? Quindi adesso c'è la questione del Capodanno e quindi viaggiano, quindi te ne vengono in Italia, sono con la febbre, ti contagiano, magari lavorano un negozio, tu ti venti a comprare qualche cosa e ti trovi cazzo cadavere, cazzo in ospedale dopo 2 giorni. E so sapere come diavolo è preso l'influenza. No, se hai seguito l'aeroporto, il telegiornale, da oggi sono direttamente ti fermano in aeroporto e ti controllano. E ho preso da gabba a piedi. A chi hai? Cinesi sono? O a tutti? A tutti, quelli che arrivano dalla Cina. Tutti quelli che arrivano dalla Cina o dalla Corea. Sono tutti le basi in firma a una base e mettono l'aereo in quarantena. Per carità, è un casino, sta diventando. Avanti, Bacchisi, avanti. Tutto un casino, tutto un casotto. Dottore, mi stai interrando i negozi cinesi al mercato. E dov'è il mercato cinese? Questo è nuovo allora. No, dove c'è coso? Quello che vende roba usata, come ti si chiama? Mi ha attaccato, Piazza Pescheria. Ma ci compreso un'onda. Mi siete sempre modulati. Ho detto, deve essere Portobello quello che mi era l'ultimo usato. Sì, Portobello, lì è attaccato, Quello lì è tranquillo, E la serie non è firmato le cose, i container a coso, a Cagliari. Dai, tutti quanti a bici. Ma lì c'era polvere. Non lo so cosa c'era dentro, ma non è firmato. Se ne sono arrivati dalla Cina e tutte le serie hanno a bici. Ma basta pigliare poi il coso, a pettini e mettere le scatole sotto il vuoto. Avanti Marino, si è detto bene Marino. Sì, ma poc'anzi parlano roba di mangiare, ma come c'è a fianco Portobello non si mangia, quello è un negozio di diciamo, abbellamento, affollamento e tutto. Non è il ristorante quello. È vero. Sì, davvero sì. Il 188 sta dicendo. Ebbè Marino. Ciao Luca. No, mi ha risposto. Qual è quello che stai dicendo vicino a Portobello? Quello lì è un negozio, non è un ristorante. Sì, il negozio da giudizio, non ristorante. Un ristorante la c'è, sai dove? Alla parte di sopra, alla parte dove c'è coso nautico 2000. Da quella parte lì trovi il ristorante cinese. Fiorellino, non dire a me dove sono i ristoranti cinesi, me le faccio tutte quante io la plastica, otto. Quelle la plastica cinese le faccio ogni giorno, hai capito? Le conosco, vado io a fare la plastica. Quello lì è un negozio quello lì, quello è un bel negozio grande, spazioso. Io faccio tutto, faccio Sakura, quello di fronte a passo in più, faccio l'altro e c'è. Tutti io le faccio il ristorante, hai capito? È entrato Luca, avanti, hai mai terminato di mangiare Luca? No, magari, non ce l'ho fame. Guarda che cettone sta vendendo, spezzatino di gambe di me. La parmigiana. Certamente. Oh Tore, dai un panino a Luca. Spezzatino dei gamberi. Non è marmoro, carri e gamberi. Andate. Quanto ne vuoi Luca? 16 etti. Hai capito Otto? Prepara i panini e Luca passa e le ritira. Avanti Bacchisio. Tore me lo può fare solo di sardine il panino, altro roba lo può pulire. Vero Otto? E allora? Chi si pone la giardina in mezzo, non è buona. Basta che sia russo però. Ma se l'ho fatta impanata. Che ne serve tiramisù cucinato in forno, Bacchi, Marino? Tiramisù cucinato in forno e ho un decap di sopra, buonissimo. Buona rete, Ma ci butto la giardina in mezzo, bevuto. No, buona rete, E chi è un bel panino pieno di anghita, non ti piace, Luca? Non che se lo fai la succiatura. Andiamo, vai, andiamo. Avanti, Antonè. Yes. Si continuate a parlare così, dallo chef e me, da poco. Certo, c'è Tore, c'ha il dito troppo veloce. Non fa un altro del ponte, sta sempre parlando. Non asciuga mai. Avanti, Antonè, fai girare. Certo, si continuate a parlare e mangiare, dallo chef e fa poco, me. Ma noi siamo a dieta, Antonè, noi siamo a dieta. Sono a dieta io, c'è Tore, Bacchisio, Luca è così così. Vero, Bacchi? Luca ha fatto merenda poco fa, dunque non è a dieta. Ha fatto la merenda e la cena anche, penso, così Luca. Ehi, la merendera ho fatto. Insomma, ho bevuto il tè alla pesca, caldo, vi ho fatto con le bustine. E più un pezzo di torta con la ricotta in mezzo. Tutta ricotta e uvetta. E due acciughette sopra, non ti piaceva anche? No, lì, giù bu su due zampette di topo e la coda di gatto. Buonare due, è vero, Tore? Non lo so, non ne so fare, miau. Miau, miau, è buono, avanti, Antonè. Adesso sto guardando il telefono, hai due secondi. Ok, avanti, sono Bacchisio. Io mi alzo e prendo una bottiglia di bar, di acqua, dai. Solo che dicendo a Luca, voglio fare il condimento, mi piace anche un po' di peperoncino. Sempre Bacchi, sempre. Ma finito lo hai? No, io c'è ancora l'olio. Non è così l'olio. Come fai il piccante? Dammi un po' la torre che ci ho fatto. No, anguille no, non ne ho preso. Non ne ho preso anguille, quindi non mi serve. Ma fa il peperoncino, lo sai cosa fa, no? Dillo tu, Luca. Non lo so così si gratterà. Non lo so. Non sai tutto, avessi permesso. Adesso mi sto facendo una cosa, ma chi? Non mi fai parlare male, dai. Avanti, tu. Non rubo niente e tu hai insegnato di dirlo, io mi sono coprinato e tu hai insegnato di dirlo, ma come dicevi fermo? Vi siete stato mutato, forse un Bacchisio, tu sai tu, io ce le cose che posso dire, sono un ragazzo quasi per bene, vero Bacchisio? Male, vasi la palla, Bacchi, è roba naturale, non hai capito? Tore già ne sa qualcosa, avanti Luca! E allora? Luca c'ha la zuppa inglese in bocca, avanti Tore! Avete il dito troppo veloce! Quello è malissimo! Dimmi Bacchi! Il dito a me, perché? Troppo veloce. E c'ho il dito automatico, hai capito? C'ho il dito automatico. È tipo Tore c'ha il dito automatico e Ider mi ha contagiato, vero Tore? No, non può sì. Non può sì. Il mio è normale, lo dico. Certo, era ben danni con la palla aleurica che ha pigliato un fuoco nel farada. Ma dove? Qua in quale Sardegna? Non mi metto in gallugue. Era girene, ho trovato a pigliare un fuoco e ne farada. Forse era stato più assorbito, più corrente e ha pigliato un fuoco. C'era. Avanti, ma chi? Io sono tutto bruciato, tutto sciuscio. Mi sono morto e c'è sciuscio. No, non è caduto per terra, non è caduto. È verano i vigili del fuoco. Ok, è la Giren. bene, tutto non tratta, pigliato un fogo, né caggiù in terra, né caggiù. E hanno fatto vedere i vigili del fuoco spegnendo. Ma solo la cosa è caduta oppure anche il palo? Ma anche il palo ha preso fuoco, è caduto. Sì, stava girando, ho fatto vedere il filmato, stava girando uno col telefonino ripigliato, stava girando, tutto un tratto c'è visto lo fuoco, è esploso e ne farà dentro raddutto. Sì, ma anche il palo? No, il palo no, il palo è dritto, tutto il resto, tutto il motore con le pale ne è sceso. Vorrei da far fatto. Luca, avanti. Via, vabbè, stanotte cosa mangiamo? Stanotte mangiamo, stavo pensando, cosa dici, spezzatino di gambe che abbiamo già mangiato, zebedri di mocca, beh, tanda, Luca. Cosa ho capito? Zebedri di mocca, in crema, ti piace? Allora, Maru, la parola risulta come formaggio marcio, capito? Ti prendi del pane sardo, quello di Osilo, lo fai freddo e lo metti sopra. Buon aneddoto, un bel bicchiere di vino. Avanti, Bacchì. Tutto è buono, avanti to. Sì, uia. Andiamo, andiamo. Lo pesci bene. Luca, lo pesci bene e poi vedi come mentisce, tutta crema esce. È vero. Provando poi me lo fai sapere. Andiamo, andiamo. Ehi, catta, non si può far nulla, no. Catta Marie, insomma. È un casino, è un casotto. Ti puoi salire e scendere, è sempre un casotto. Antonello, sei entrato? Sto telefono, ma... C'è addirittura la bicicletta a gas. Bella, E la bomba da quanto vuole? Cosa ne so io, a gas è di che? Salvando che ho 150 euro, cosa cazzo non sa, sono... Anche non sono fatto a cosa a piedi, cazzo. 50 euro. E poi che roba un euro, sedie, tavoli. Vai, una lavatrice di 80 euro. Per carità, oggi è una giornata di rivendita, cazzo. La carità. Ma cosa stai guardando? Porto bello stai guardando. No, quello che mandano su Facebook, vendo proprio scambio, capito? Capretto, capretto, avanti o... Ma chi? Sentiamo domani, Bacchì. Fammi bene. E buona cena, ok. Riprendi Marì. Ok, ciao Bacchì, ben sentito domani, se coincide, se in caso se ne faccio fretta già ti chiamo, là. Ok, avanti Antone. Sì, saluto di ciao Bacchì, stammi bene, alle prossimine. A domani, scendiamo così. Sempre se non mi va l'aria, cazzo. Su Facebook c'è poca immondezza, cazzo, di vento, dove c'è l'acqua, di tutto avremo domani, speriamo di no. Tutto domani, Bobo, andiamo bene, andiamo avanti Luca. Ehi, ciao Bacchi, salutoni dai. Buona sera e buon tutto, a domani, a trenza di impianto, poi va a posto. Perché ieri sentivo bene, oggi non un po' così, dai. Secondo come mi metto, come mi muovo in casa, non ti sentivo manco bene. Ciao. Avanti Tore. Ehi, uia, dai, ne approfitto pure io, dai, mi sociamente. Ci sentiamo domani, ci sentiamo, dai. Ok, alle prossime. Ciao a tutti, ciao Antonello, ciao Luca e ciao Marino. Ciao. da 8 ore per sentito, domani se coincide, avanti Antonetto. Sì, ciao. Poi ci sentiamo domani, salutami bene da parte mia. Avanti Luca, per saluti al signor Squaletto. Sì, ciao Tom, anche a te, dai, alla prossima. Anche io vi saluto che è pronto a mangiare qua, va. Ciao Marino, ciao, buon voi domani, ciao, buonanotte. Che ciao Luca, ben sentito, saluto in casa, domani se coincide. Antonio, sole e soletti siamo rimasti, avanti. Me ne sono accorto. Il mio collega mi ha portato 4 accessori, ti mando una foto domani, dopo la faccia domani, o più tardi ti mando la foto. Ci sei sulle WhatsApp, sì? Sì. E ti mando una foto e guardi se c'è qualcuno che le serve. Io l'ho provato e qua funziona, poi non lo so. Sono delle icon, portate di icon. Avanti. Ricordati quei cosi mi ritirati, quei tubi la mattina. Mi sono dimenticato cazzo di tenermi un pacco dato che c'era. Perché era un pacco all'aperto, cioè un pacco con una scatola, capito? È arrivato solamente una. L'unica cosa mi è rimasta la bombola adesso e basta. Vediamo che venga a ritirarsela, cazzo. A me non me ne sto come a mezzo ai piedi. Allora, a me me ne erano contatti, guarda, contatti. Allora io l'ho chiamato e per la maschera mi ha dato due maschere, un filtro e un tubo. Proprio contatto, ma non è colpa sua, è colpa della VSL, capito? Anche loro c'è qualcosa da così. Invece quello della Sappio, quello che sei tu, danno quello che vuoi, così è. Pacco intero, no? Sì, ogni anno ti danno un pacco intero, cioè adesso mi sembra due o tre dentro, cioè adesso una cosa del genere. Quindi, figurati, gliel' hai visti come sono. Siccome stamattina c'è la busta che era aperta, però c'è la mascherina, c'è il tubo, c'è il tubicino, eccetera, eccetera. Quindi ho preso, l'ho sigillato, l'ho messo nelle. L'ho chiuso e l'ho messo nel divano. Quando poi passi qua tu lo ritiri, non c'è problema. Ok, tanto io quello lì non è che. Quello che è la mascherina non mi va bene a me, l'ho dato a un amico che gli erano contatti anche a lui e lui utilizza la bombola, capito? Utilizza la bombola, dunque lo date come ricambi, glielo ho dato, già va bene, adesso domani quando passo il ritiro glielo do, così almeno c'è ricambi, perché la mia è normale, capito? La mia è la maschera così, però è. Non c'è il tubicino, se io piazzo quella lì, nella macchina mia, mi è spiata da quel tubicino sottile. Tu c'hai tipo quella di aerosol, dai la mascherina, quella piccolina. C'ho la maschera tipo quella che tu mi hai dato l'altra volta, la maschera è precisa, solo c'è solo un tubo grosso e basta, là c'è un tubo grosso, no? Invece il tuo c'è il tubo grosso e il tubo sottile. Il tubo sottile dovrebbe essere per l'ossigeno, così è? Sì, esatto. C'è il tubo grosso e il tubo sottile, infatti. In quella busta. Invece la maschera mia c'è solo il tubo grosso, la mia va direttamente collegata al macchinario e basta. Invece il tuo va collegato al macchinario e va collegato alla bombola, giusto? Esatto, sì, ma si può anche tappare quel foro, le metti un coso e lo tappi, quello di una frutti, le metti appena appena la silicone e usi solamente il tubo grosso. C'è anche il rubinetto, ho visto, c'è per aprire. Lo so, lo vedrai tu domani, dai, quando trovo, per quello non c'è problema. Sì, vabbè, si ricorda, non è igienico, è roba che devi respirare, capito? Meglio essere più tranquilli. Vabbè, dopo lo vediamo, non c'è problema, non c'è problema. Io ne ho 4, sicuramente era di qualche. Sono lei, guardi con la sigla, forse tu le conosci, prendete gli occhiali, aspetta, Però sono LPD, LPD, 4. 4 LPD, neanche io di quelli LPD piccolini, i grigi sono. Di quei portatelini, piccolino. Ne ha trovato due giovani in garage di portatili, mi sembra che li date a Fabio. Adesso non lo so, glielo devo chiedere. Non so se sono due portatili PMR e LPD o se sono. Metto che sono due walkie talkie, mi ha detto Giovanna, poi non lo so, boh. Io volevo chiedere a vedere cosa diavolo sono. Li ha trovati, non so, in garage, non so se è roba marina, boh. Sì, queste qua sono della Icon, c'è scritto, aspetta. IC400-8E LPD. E so che non c'ho carica batteria, so che c'è il porta batteria, ci stanno tre cose, tre stilo dentro. Io l'ho provato e vanno benissimo, c'ha l'antennino che lo puoi girare, capito? È mobile, forse per metterlo in tasca l'apparecchio, capito? Non ce lo presentano che apparecchi sono, la verità. Quando mi vedo te lo dirò a un certo punto, me lo dica io. Figurati. L'altro giorno ci ho buttato tutte le schede del computer di quelli base. E avevo una ventina di schede, nuove, sigillate, c'era il fax, c'era il coso, ci ho buttato tutto. Anche addirittura il computer ci ha buttato. Sono andato a Giuseppe, ho detto Giuseppe, ti arrangiati tu, se vuoi la porta bella vendita ti rivendi, ho detto se no, ho detto mi. Prima che se la ritrovi, gli ho detto se ci ributti, tanto devo liberare, ho detto per mio nipote che è la camera. Quindi a un certo punto ho detto no, non me ne fosse più nulla. Cioè tenere una cosa qui, lampada. Quello che mi sono tenuto sono gli alimentatori, mi, che quelli servono sempre. Quelli alimentatorini 4,5, 10 volts, 9 volts, quello che c'erano nella alimentazione, quei telefoni cordless modello vecchio, che ne ho due, funzionano benissimo quelli in casa. Gli metti le batterie da piccoline dentro, da 1,2, cioè da 1,2 funzionano bene, ti fanno 300-400 metri, capito? E poi qualche altra cazzata mi sono tenuto, tutto il resto già, tutto quanto lampato, ho fatto 7 viaggi, cazzo, da salì, salendo e scendendo, cazzo. E Antonessi, è roba che non è venuta, non è venuta questa roba, in cui ci appoggia alla fine diventa un coso, diventa, se è roba che usi ogni giorno è un discorso, ma ormai quella roba già lo sai, non la trovi dove ti piace, hai fatto bene, svuota tutto. E il laboratorio dove lo fai? Giù in garage? Dov'è? No, il laboratorio, quando c'è qualcosa da riparare me la riparo qui in camera, dove sta mia nipote e basta. Quando c'è lei prendo e mi faccio la riparazione che devo farmi, c'ho il tavolino, già l'hai visto, lo tengo sgombro in modo da poter lavorare bene, i ferri me li metto in camera da letto dietro alla, come si chiama, al mobile. Te lo tieni qua, capite, ma non ci vuole un pochettino di spazio in più e basta, altro non posso fare, anche perché l'altro giorno mi hanno portato un coso a riparare e meno male c'avevo il condensatore da un mixer, li ho recuperati, era lì, li ho recuperati, gli ho messi e sono riuscito a togliere il corto che c'era, però c'è qualche transistor che sta rompendo le balle, perché dura un 4,22, adesso mi fa fare la funzione per dire digitale, analogico, eccetera eccetera, questo aggeggio qui, invece prima si accendeva e si spegneva subito, faceva goodbye, mi scriveva e protezione. Adesso invece dura 2-3 minuti, quindi ci sono vicino. C'è se qualche transistor magari che sta girando le balle da cambiare. C'è altro contestato, ma gonfi mica. Tutti vicino attaccate alle casse che ci sono all'interno. Uno di quei booster, ce li presenti, che si usa la parete di visori LG. E ho capito, sì. Purtroppo sembra così, ma ci vuole il tempo suo anche. È un casotto, boh. Oioia. E hai fatto bene a parte tutto, là, piano piano. Quando c'è qualche riparazione, sta riparando il tavolino, ciccia. Ma che siamo giù, ti conviene a fare il laboratorio giù in garage, no? Troppo casotto c'è. L'ho affittato il garage, lo sai, non c'è nulla in garage, è vuoto. Capito? Adesso quando lo lascerà quello che ho dato, lo riaffitterò, capito? Di più. E cosa me lo tengo a fare il garage? Quando me l'affitto recupero un po' di soldi, capito? non mi dà fottitura di scendere in garage, che cosa? A parte quando scendi in garage vedete che chiuderti dentro, capito? Poi se fai qualche prova e cominci a curiosare, capito? A un certo punto te la biglia in culo. Vabbè, poi se mi dovessero chiamare a fare un'ora al giorno lì al, come si chiama, al comune, se mi passo l'ora e gli apparecchi me li faccio, se c'è qualche cosa da farmi, me la faccio qua a casa. Vado in cucina, mi metto sopra il tavolo e mi faccio la salatura, quello che è, e sono a posto. E vabbè, hai fatto bene a affittarlo, tanto per essere a vuoto, voglio recuperare qualcosa. E giù in effetti passa qualcuno e incomincia a entrare, a fricchettare e così via. Hai fatto bene, va, via. Bene Mela, bene Mela, bene Antonè, mi sta chiamando mio nipote, e mo adesso chiudo. Ciao Antonè, saluto in casa, già sentiamo, là. E guarda, non so se domani ce la faccio, se non già, sono massimo venerdì, ti chiamo, ti avverto prima e salgo, ti porto con la commissione, con la... il cavalletto, così mi sentivo la roba che stavo dicendo, là. E beh, quella roba l'hai vista, quella roba che ti ho portato, sì? Sì, l'ho vista, l'ho messa in garage da Giovanni, l'ho messa per il momento, poi me la sacco piano piano, perché c'era un po' di bicchieri di Morello vecchio da buttare, capito, che sono pacchi, su quelli della serie Napoleon, te li ricordi? Quelli vecchi, sono pacchi di colore, come vetro. E quindi ce li tolgo quelli e mi sacco sugli altri. E ok, fai bene, vabbè, io ho dato a te, ho fatto benissimo. Era un peccato, ho capito, è un'orificeria che sta chiudendo e mi ha chiamato e me l'ha dato. Io sono adesso di gira del passo Antonello, se ne servo, perché buttarli è un peccato. Prima di buttarli è meglio darli, scusa, ci mancherebbe altro. Ok Antonè, ti ringrazio della chiacchierata e a domani, dai. Domani si coincide, saluto in tutti gli ascoltoni, anch'io faccio QRT. Dai, ciao Antonè, saluto in casa. Ehi, ciao, ci sentiamo domani. Saluto a tutti quelli che stanno ascoltando.